La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Шагаю еле-еле, вершок за пять минут. Ho parlato spesso del film Sin noticia de Dios, senza notizie di Dio, dello spagnolo Yanez, uscito nel 2000 e distribuito in Italia dalla Lucky Red, perché dentro c'è una frase che contiene tutto ciò che stiamo passando e viene chiamato crisi. A un certo punto il diavolo dice: l'unica rivoluzione che sia mai riuscita, la rivoluzione dei ricchi. La storia del film c'è questo colpo di stato all'inferno. I ricchi e i potenti si rifiutano di scontare mai più la pena. Ma come? L'inferno e il paradiso sono stati inventati per questo, per consolare gli oppressi e anche per tenerli buoni. Sopportate la fame e la prepotenza, tanto di là vi aspetta un mondo giusto, tanto dopo la morte ve la riderete sugli scranni del paradiso, mentre i ladri, gli assassini, quelli che vi hanno calpestato, bruceranno l'inferno e sarete vendicati. Invece no, nel film i dannati si ribellano alla legge del contrappasso. Arriva giù l'anima nerissima del capo del Fondo Monetario Internazionale e invece di pagare i suoi delitti vuole mantenere il ruolo che aveva in vita, ovvero vuole continuare a comandare e a divorare il prossimo come prima. Il diavolo è disperato perché lui ci tiene a distinguere il bene dal male, altrimenti la sua esistenza è inutile, e dice la famosa frase che ho citato. Ed è vero, la rivoluzione dei ricchi non è mai riuscita così completamente come adesso, perché sono riusciti ad annichilire la speranza. Adesso, invece di rivoltarsi contro di loro, le persone si rivoltano contro se stesse e si uccidono. Sappiamo bene che il profitto ha sempre condotto il mondo e distrutto innumerevoli vite umane. Carmelo Bene diceva che l'insegnamento della storia è apologia di strage. Ma coi mezzi di adesso, dove arricchirsi diventa un gioco dove non perdono i giocatori, ma noi che siamo le fish, un gioco giocato sopra le nostre teste e con le nostre teste, chi non ce la fa più, che fa? Si uccide. Oscar Giannino e Radio 24 hanno preso questa iniziativa, Disperati Mai, per cercare di sostenere gli imprenditori, i disoccupati, le vittime di questo sistema assassino, che possono parlare con qualcuno che in qualche modo li sostenga. Però non mi risulta che ce ne siano tante altre di iniziative di questo genere, e quanto al Presidente del Consiglio, non è riuscito neanche a chiamare la cosa col loro nome, e parlando di questa epidemia di suicidi disse, mi ricordo, li chiamò comportamenti umani, nella maniera più tartufa del mondo. Soltanto la grande differenza: in passato, quando le condizioni di vita diventavano intollerabili, scoppiava la rivoluzione e allora veniva rovesciato il tiranno con i suoi complici. Il popolo prendeva le armi e reagiva. Per esempio, in Francia nel 1789, in Russia nel 1917, e arrivavano roncole, forconi, fucili, ghigliottine. Oggi no. Oggi l'aggressività si sfoga contro di sé. La rivoluzione dei ricchi è riuscita al punto che ci hanno convinti nel profondo di essere sudditi. Il fatto più sconvolgente è quello degli OGM, ovvero i semi assassini chiamati Terminator, che hanno distrutto immense colture di cotone in India. E nel Maharashtra, e nell'Andhra Pradesh, nel Gujarat, i contadini si sono uccisi, pare, in 100.000. Queste notizie le prendo dal Manifesto, ma se guardate in rete troverete una documentazione sconvolgente. Ora, 100.000 persone sono un esercito. Se 100.000 persone si organizzano, possono fare a pezzi tutti gli OGM del mondo. E chi ci guadagna? Invece no, si uccidono in massa. Siamo così perfettamente sottomessi che non crediamo più di poter migliorare il nostro destino. Cioè, ci siamo dati per sconfitti. Crediamo profondamente che nulla possa cambiare ormai. Invece di alzare la mano su chi ritiene colpevole, il disperato si fa giustizia da sé. Non aspetta di morire di fame e di umiliazione, e la fa finita subito. Quindi riconosce ai suoi oppressori un potere divino, indiscutibile, come era nella notte dei tempi. E senza nemmeno dividere la morte coi colpevoli, non so, facendosi esplodere, spacciando chi lo opprime, come fanno i kamikaze. Vorrei spiegare bene, io non sto affatto auspicando una rivolta armata o degli atti di violenza. Constato, e mi stupisco, e mi sgomento, che invece della rivoluzione sia l'era del suicidio. La rivoluzione è morta. Viene uccisa dentro di noi dagli OGM di una rassegnazione che ci riduce a poveri mutanti senza più il diritto dei nostri diritti di uomini. Poi ci sono ancora dei piccoli miracoli e i sardi sembrano fra gli ultimi non ancora geneticamente modificati. Hanno ancora il senso della dignità, del diritto. Sono ancora capaci di rivolte, pensiamo alla Sinara, ai minatori del Sulcis che sono scesi a 400 metri sottoterra per ottenere ciò che loro spetta. E che viene negato. Viene negato a gente il cui lavoro vuol dire rischiare la pelle ogni giorno. E per scendere a 400 metri con un carico di esplosivo accanto ci vogliono una forza e una fermezza sovrumane. Ci vuole una fede assoluta nella giustizia come diritto. Io qui dal faro sento il diluvio dell'ingiustizia che sale, sale, sale e che ci sommergerà tutti. E allora un'arca galleggerà sulle acque. E invece di Noè e dei suoi famigli, invece delle coppie degli elefanti, delle colombe, delle pantere, delle giraffe, ci saranno a bordo i finanzieri, gli speculatori, gli ingiusti, quelli che hanno causato il diluvio e brinderanno alla morte del mondo, che era poi lo scopo di tutto questo. La regista della Guardiana del Faro, Gloria Guerrera, è una ragazza di buone letture e quindi non è di quelli che ragionano sempre in termini generazionali, però ogni tanto quando serve sì, e quando ha visto Roma tutta spenta come ultima trovata del governo per risparmiare in cambio di niente, ha avuto una crisi di rabbia, ha avuto una crisi di rabbia proprio in quanto trentenne, e tra l'altro le era sembrato un simbolo del buio in cui si vuol tenere chi è giovane. E quindi abbiamo pensato di sentire altri trentenni, e nel frattempo c'è stata anche l'uscita del ministro Fornero che ha ammonito i giovani dicendo di non essere troppo schizzinosi e di prendere qualsiasi lavoro capiti. Oh, ma guarda che non ce la fanno proprio questi tecnici a lavorare contro di noi e zitti. No, ma imparino dai gesuiti. Si deve lavorare sotto traccia per fregare la gente, non come fate voi, perché la vanità li frega poi. A questi tecnici mancano le minime astuzie della tirannide. Non resistono a farci anche le prediche. Cioè, ci vogliono insegnare come si vive in miseria loro che vivono da ricchi. Questo è insostenibile. No, e poi si lagna la ministra perché non la fanno parlare. Beh, la democrazia non c'entra qui, c'entra il buonsenso, perché il diritto a parlare si deve guadagnare. E se tu vieni lì a dirmi una sciocchezza offensiva, basta, l'hai detta, non voglio sentire altro. Questo è un mio diritto. E poi dopo si è dichiarata molto avvilita. No, guardi signora, scusi, avviliti siamo noi. Avviliti sono i giovani. E quel suo discorso con questo termine inglese, choosy, che a Roma si tradurrebbe con fregnoni, suona inesorabilmente così. Brutti pezzenti, ma che volete? Vorreste ancora scegliere? Ma ringraziateci per le briciole che vi toccano, se vi toccano. E poi si amareggiano perché la gente, secondo me, fin troppo educatamente protesta. Questi ci vorrebbero schiacciare sotto i piedi senza sentire nemmeno un lamento perché disturba. È per questo che vorremmo sentire dei giovani choosy, cioè dei giovani che vorrebbero scegliere e a qualsiasi costo cercano di uscire dalla tomba dove li vogliono rinchiudere. E oggi abbiamo chiesto a Francesca Mancini di raccontarci di sé e di cosa fanno le Turbine, questa associazione culturale che ha fondato con altre ragazze, e dirò solo i nomi di quelle che hanno organizzato il festival di Ventotene, che sono Laura Pesino, Marianna Morano e Vania Ribeca, oltre appunto Francesca Mancini. E le Turbine disobbediscono a questo diktat della ministra e stanno cercando con molte idee e pochi soldi di realizzare le loro imprese. E dico impresa in senso antico, come nell'Orlando Furioso, lottano per riprendersi quello che spetterebbe ai giovani. L'audacia, la testardaggine, il gioco. Insomma, resistono a questo sistema dissennato che vuole ridurre i giovani a degli affamati tremebondi senza più diritto al progetto, al sogno, condanna assurda di una società che sembra che abbia scritto nella Costituzione l'Italia è una nazione fondata sul suicidio. E buttar via i giovani è il suicidio per eccellenza, rendendo loro difficilissimo far figli. E penso che quando i trentenni di oggi che hanno rinunciato a figliare avranno 50 anni, mezza Italia sarà abitata da centenari. Una delle iniziative delle turbine è stato, come dicevo, il festival letterario di Ventotene, la gita al faro, dove Lidia Vera era il nostro pastore. È stata un'esperienza bella, una lunga bevuta fra scrittori, e le turbine sono riuscite a far funzionare tutto. Vabbè, uno dice, ma questi sono meriti da agenzia di viaggi. No, qui ci vuole l'arte. Cioè, pensate solo a riuscire ad arginare l'infinito narcisismo degli scrittori. Oh, hai visto? A Veronesi gli hanno dato la camera col balcone e ha messo Tugurio. Ma quello ha vinto lo Strega. Sì, ma io ho vinto il Campiello. Cioè, niente di tutto ciò. E sono riuscita a suscitare l'emozione, a far sì che tutta l'isola venisse a sentire questi strani esseri che leggevano dei foglietti. Insomma, sono riuscita a fare una festa di paese. Francesca Mancini è diplomatica e appassionata, è spiritosa. Io ero molto affascinata dal suo modo di vestire, perché mentre trottavano come somari, lei aveva sempre un abito diverso. Ma e che abiti? Perché ognuno era un personaggio, un'evocazione letteraria. Non so, arriva è una collegiale in bianco e blu, poi ti giri, è sera ed è diventata una ragazza degli anni venti, oppure una diavola tutta in rosso. In ognuno di quei travestimenti c'era una fede profonda nel rito, nella trasformazione, nel mutamento. Gli abiti di Francesca erano diventati il manifesto estetico dell'iniziativa. Allora, abbiamo al telefono Francesca Mancini. Francesca, buongiorno. Buongiorno, ciao Barbara. Come sei vestita? Oggi ho una gonna scozzese bianca e blu e una maglia blu. Un altro manifesto. Senti, io ti ho chiamato per sapere come vi è venuta l'idea, come si è costituito il gruppo, turbine, l'organizzazione economica, per Ventotene, per esempio, difficoltà, risultati. Il festival Gita al Faro e turbine nascono contemporaneamente. Io insieme alle altre tre ragazze che fanno parte dell'associazione culturale frequentiamo l'isola di Ventotene da molti anni. L'isola è sempre stata un posto per noi, un rifugio, un luogo in cui rilassarci e sostanzialmente soprattutto leggere. Da lì l'idea di organizzare, proprio perché forse all'isola mancava un evento del genere, un festival letterario. L'isola ha una bellissima libreria, un libraio appassionato, una biblioteca ricca di volumi. Per realizzare un festival bisognava unirsi e quindi abbiamo deciso di aprire un'associazione culturale. È stato molto carino perché eravamo noi quattro, poi abbiamo parlato del nostro progetto ad amici, amiche, colleghi, colleghe, e insieme abbiamo costituito un gruppo di 11 persone. Quindi Turbine in realtà mette insieme progetti, idee, sogni di tante persone diverse, e questo ci piace moltissimo. Il festival è stato il primo evento, ma abbiamo voglia, desiderio di poter realizzare anche tutti i progetti degli altri. Ci racconti proprio praticamente, perché qui si sta parlando per esempio, appunto di... Ecco, sì, per esempio, allora, noi abbiamo, io, Laura, Marianne e Vania, abbiamo buttato giù l'idea del festival, e cioè l'idea di invitare 8 autori, di fargli scrivere qualcosa. Poi è arrivata Lidia Ravera, abbiamo contattato Lidia perché è un amante delle isole, perché Camilla Ravera è stata al confino sull'isola di Santo Stefano, e quindi ci piaceva questo legame tra queste due donne. E lei ci ha detto, ma perché questi autori non li confiniamo? E quindi da lì l'idea del confino, cioè di ospitarli per più giorni. Poi una nostra carissima amica che fa la regista ha letto il progetto e ci ha detto, ma perché questi autori non li riprendiamo? Ma i soldi, i mezzi, come avete fatto? A darci da mangiare, da bere, a farci viaggiare, come avete fatto? Noi per circa 5, 6, forse anche 7 mesi abbiamo cercato ovunque degli sponsor privati, e ne abbiamo trovati in realtà solo 3 che ci hanno aiutato, ci hanno dato qualcosina. Poi abbiamo fatto 2 grandi feste per autofinanziarci, e per questo devo ringraziare tutti gli amici che si sono tesserati e hanno partecipato a 2 giornate in cui noi abbiamo offerto da bere e da mangiare. Abbiamo fatto dei reading con giovani autori romani a pagamento. Quindi sì, avete organizzato degli eventi culturali. Loro, i nostri, abbiamo tesserato per finanziare un evento culturale. Esatto. E poi che il contributo maggiore ci deve ancora arrivare dalla Regione Lazio, che abbiamo tantissime persone che hanno lavorato con noi, sono ancora in attesa di essere pagate. Però devo dirti anche un'altra verità, sono stati tutti molto carini e attendono come noi l'arrivo appunto del denaro. Tu che lavoro fai, Francesca? Io sono un editor per una casa editrice romana, lavoro come editor. Per quale casa editrice? Per la Newton Compton. Mi dici cosa diresti alla ministra Fornero? Che dice che siete schizzinosi voi ragazzi, che siete ciusi. Sai, è un termine inglese che si può riferire a una signorina che svenevole, smorfiosa, non vuole i suoi pretendenti e alla fine rimarrà zitella. Cioè, oltretutto un termine di una frivolezza imperdonabile. Che cosa risponderesti? La ministra Fornero dovrebbe scendere, dovrebbe camminare per strada e dovrebbe parlare con i ragazzi, dovrebbe conoscerli. Mi sembra piuttosto un discorso di una persona che fa finta di non vedere, che non sente e che non vede i giovani. Credo che la sua affermazione sia disdicevole, offensiva, fintamente ingenua, ecco, forse direi. Tra l'altro mi stupisce una cosa, perché lei non è nata ricca, quindi non è una principessa che dall'alto del castello non ha mai visto il mondo, perché pare che sia di origini umili e quindi evidentemente basta, il benessere ottunde, fa dimenticare esatto, assolutamente la realtà. No, e anche il tuo passato. Fa dimenticare gli altri, fa dimenticare le vite degli altri, direi. Non ti fa guardare intorno, ti chiude nei castelli del potere e della ricchezza, probabilmente. E senti, ma mi spiega appunto come si pone una ragazza che dice, cioè c'è una forma di resistenza cosciente in questo, di dire, ah sì, ci volete ridurre così, e noi tentiamo l'impossibile, noi tentiamo quello che state cercando di impedirci di fare. Beh, io mi sento molto coraggiosa, mi sento che ho voglia di rischiare, che ho voglia anche di fallire, che ho voglia, hai voglia di giocare, di sperimentare, che ho voglia di giocare, che ho voglia di divertirmi. Per me il festival è stato questo, è dimostrare che si possono fare tante cose con il coraggio, con la perseveranza e soprattutto insieme agli altri. Il festival Gita al Faro è la dimostrazione che insieme agli altri si possono fare delle cose belle. Questa è la poesia più famosa che Wilfred Owen, poeta inglese morto a 25 anni durante la Prima Guerra Mondiale, ha scritto contro la guerra e si intitola Dulce et decorum est e parla dei soldati. Piegati in due come i vecchi mendicanti, con le ginocchia ricurve, tossendo come streghe, imprecavamo nella melma, finché girammo le spalle al bagliore dei proiettili e verso le nostre lontane retrovie cominciamo ad arrancare. Gli uomini marciavano dormendo, molti avevano perso gli stivali e andavano calzati di sangue. Finirono tutti zoppi, tutti ciechi, ubriachi di fatica, sordi persino al sibilo delle stanche granate che cadevano lontane. Il gas, svelti ragazzi! Come in estasi annasparono, appena in tempo infilandosi gli elmetti. Ma qualcuno continuava a gridare e inciampare, a dimenarsi come un uomo in mezzo al fuoco o alla calce, confuso attraverso le annebbiate lastre di vetro e la luce verde, come sotto un mare verde, lo vidi annegare. In tutti i miei sogni, davanti ai miei occhi, si tuffa verso di me, colando giù, soffocando, annegando. Se in qualche brutto sogno potessi anche tu metterti dietro il vagone dove lo gettammo e vedessi i bianchi occhi torcersi nel suo viso, il suo viso penzoloni, come un demone sazio di peccati. Se tu potessi udire ad ogni sobbalzo il sangue che esce gorgogliante dai polmoni. Amico mio, tu non diresti mai più con tale entusiasmo ai bambini ardenti per qualche disperata gloria la vecchia menzogna, dulce et decorum est, pro patria mori. Charmanca, charmanca. Oggi abbiamo un ospite, Bruno Ballardini, un uomo libero. Intanto è uno dei massimi esperti di arti marziali in Italia ed è anche un intellettuale importante, e già con la parola intellettuale io lo dimezzo Ballardini, perché lui rifiuta la dannosa visione cattolica della divisione tra corpo e anima, e quindi lui è anche intellettuale corporale. Insomma, Ballardini è per l'uomo intero Io ho letto i suoi libri, Gesù lava più bianco, ovvero Come la Chiesa inventò il marketing, pubblicato da Minimum Fax, e quello più recente, Gesù e i saldi di fine stagione, pubblicato per PM. E lui non scrive da mangiapreti, scrive da scienziato. A questo proposito vorrei leggere un commento ai suoi libri di Luciano Franceschetti, il quale definisce Bruno Ballardini un sommo pontefice, un grande guru della comunicazione globale, un freddo analista dei fenomeni economici applicati ai fatti religiosi. Ballardini non ha intenti ateistici e neppure tanto anticlericali. Semplicemente rilegge le origini e le evoluzioni della marca clericale nell'ottica della conquista fatta di parole, nella prospettiva della vittoria. Io definirei Ballardini un agente della dignità umana, ovvero della salute, in senso totale. Buongiorno Bruno. Buongiorno a tutti. Ecco, a parte che mi ricordo con vergogna ma anche con divertimento la prima volta che ci siamo visti, che io volevo convincerti, non ti conoscevo, e volevo convincerti della bontà di coltivare il corpo e di fare magari lo yoga, e non sapevo che stavo parlando appunto con un maestro. Mi trovo su due fronti a lavorare, che è quello della scrittura e parallelamente quello anche del corpo, quello dell'unità tra corpo e spirito, che sono aiutato a mantenere grazie a una disciplina che pratico da quando ero piccino, e cioè il karate. Senti, adesso io vorrei parlare con te delle donne uccise. Avrei seguito quest'ultima cosa, Carmela, ragazza di 17 anni, uccisa a coltellate per difendere la sorella, che anche lei poi è stata ferita gravissimamente. E il Fatto Quotidiano del 21 ottobre titolava «Oggi ne morirà un'altra». E tu sai bene che non è un titolo ad effetto, è statistica. 101 donne ammazzate da uomini, 10 al mese dall'inizio dell'anno. Certo. Li chiamano delitti passionali, ma per carità, l'unica passione di questi assassini è di non essere contraddetti, di esercitare la massima delle prepotenze, uccidere. Poi dimmi tu cosa pensi di questo, ti dico la mia semplice idea. E penso che la parità tra uomini e donne è difficile da far digerire agli antichi padroni. Non si fa un passaggio così in poche generazioni. I detronizzati alla fine non ci credono a questa parità. Nel 1981 viene abolita la legge sul delitto d'onore, ovvero la licenza di uccidere la moglie, la sorella, la figlia. Che poi l'onore cos'era? Che le donne devono obbedire e zitte, questo è l'onore. L'81 è l'altro ieri. È l'altro ieri, però sono passati 30 anni. E che se i loro maschi non ce la facevano a tenerle alla catena, c'erano a dare una mano altri maschi, quelli della legge. Però non sono mai state uccise tante donne dai loro uomini come da quando quella legge è stata abolita. Quando nel sud degli Stati Uniti fu abolita la schiavitù dopo la guerra di secessione, c'è stata una strage di afroamericani. Sì. Il fatto che sia abolita una legge non significa ancora nulla, perché culturalmente l'abitudine rimane per molto tempo, decenni ancora. Io credo che noi si sia arrivati a retrocedere a quello che culturalmente eravamo prima degli anni 50. Se la nostra società maschilista era rimasta fino all'epoca del dopoguerra intatta, con un padre padrone, con un maschio che era al centro della famiglia, quando invece sappiamo tutti che non è mai stato vero questa cosa qui. Tutto quello che è successo negli anni 60, ad esempio i movimenti di liberazione, addirittura io mi onoro ancora oggi di aver fatto parte del movimento hippie. Nessuno si ricorda più che cos'era. Noi eravamo per la liberazione sessuale, provocavamo anche su questo punto. Non è rimasto nulla di tutto questo, è stato spazzato via quando poi negli ultimi anni è arrivata la cultura del berlusconismo. Non è politica, stiamo parlando in termini culturali. Ci ha fatto tornare indietro di 50 Ci anni. Ci ha fatto tornare indietro dopo la donna oggetto, contro cui il movimento femminista, con tutte le sue esagerazioni, però giustamente si è scagliato, la donna oggetto. I movimenti di liberazione sono sempre esagerati, non possono essere in punta di forchetta. Per forza. Ma certo. La donna non può essere oggetto, ma noi siamo regrediti ulteriormente, non è più nemmeno oggetto, è nulla. Non è nulla. La facilità con cui viene ammazzata una donna oggi, è una donna, una compagna, non una donna generica, una donna che tu hai scelto per la tua vita, dichiari di aver scelto, a cui hai dichiarato amore, l'indomani la prendi a coltellate. Il delitto passionale è la giustificazione vecchia, bieca, con cui nei tribunali una volta si dava un attenuante al maschio che purtroppo si legittimava. È stata colpa della donna, e lei l'ha fatto ingelosire, si legittimava in questo modo. Questo formalmente, ma dal punto di vista culturale, la cultura, come si può dire, masturbatoria berlusconiana ha portato addirittura ad annullare la donna oggetto e farla diventare soltanto un'icona, come le figurine delle riviste porno, cioè meno che niente. Non ha più neanche tre dimensioni, è una cosa patinata. Diciamo che il maschio medio italiano di questa epoca ha preso questi modelli, li ha assorbiti. Il danno che è stato fatto a livello morale ed etico dal berlusconismo, non è Berlusconi in particolare, ma tutto il suo contorno. Tutta l'incultura che ha portato, certo. Tutta l'incultura e la maleducazione sessuale, la maleducazione sentimentale. Noi avremo anni per poter mettere mano a questo e riuscire a guarire da questo. Il paese è diventato marcio. Una cosa impressionante, quando poi questi maschi uccidono, per me che sia premeditato non è un dettaglio, ma in ogni caso nel 90% dei casi premeditato, poi alla fine finiscono per scontare gli stessi anni che ti davano col delitto d'onore. Esattamente. E sono tutti i delitti enunciati. Giorni fa ho conosciuto il cugino di una ragazza che è stata uccisa a coltellate dal marito, tre figli, Lei aveva denunciato 12 volte quest'uomo per i maltrattamenti, aveva fatto vedere i graffi, le botte, i lividi, i capelli strappati. Che cosa ne fanno poi i carabinieri? Li buttano via. Adesso non voglio dire, magari qualcuno sarà anche... Però, come dici tu, l'atteggiamento culturale è quello. In ogni caso, comunque, la polizia non ha fatto nulla e il giudice aveva affidato i figli a questo picchiatore, tossicodipendente e spacciatore. Ora, il cinema americano ci ha abituato che appena un assassino annuncia il prossimo delitto, arrivano gli elicotteri, arrivano i corpi speciali e la vittima viene salvata. Qui non succede nulla. Lorella Zanardo scrive sul Fatto Quotidiano, parla di Carmela Petrucci, la ragazza che è morta per difendere la sorella. In una società ormai incapace di tutelare le fasce più deboli della popolazione, avviene che una ragazzina di 17 anni si assuma la responsabilità enorme di salvare la sorella 18enne, che gli adulti non hanno voluto proteggere. Emerge l'urgenza, non più procrastinabile, di mettere a punto un piano nazionale che miri ad arginare la violenza verso le donne. Bisogna rifare l'Italia da capo, bisogna cominciare dalla scuola, anche quella tagliata. Dalla scuola e dalla famiglia. Però io sono d'accordo con quello che dice la Zanardo, però in attesa di questo, intanto che aspettiamo però? Io ho sempre pensato che dobbiamo imparare a difenderci da sole, perché comunque il maschio umano è più forte della femmina. La legge dice che siamo uguali, ma nei fatti poi quando te lo trovi davanti col coltello vince lui. Quindi dalla giustizia non ci possiamo aspettare niente. Dalla società non credo. Io non mi illudo che si possa atterrare un gigante, e magari vincerlo alle botte. Però io mi ricordo quando ero ragazzina, che ho preso pochissime lezioni di judo, che il divertimento massimo, eravamo delle smilze tredicenni, era di far perdere l'equilibrio a il più tutti, grosso della palestra, ai forzuti del bar. Ci divertiamo come pazze, perché, e comunque il mio punto è questo: non è una grande ambizione, non è proprio di dargli una lezione come se tu fossi Hulk, ma di atterrarlo e poi magari scappi o chiami qualcuno. Quindi adesso io ho finito e vorrei che parlasse di questo uno che ne ha fatto l'interesse della sua vita e che è Bruno Ballardini. Il karate è antichissimo, è di origine buddista e si sostiene che sia nato in Cina nel V secolo d.C. nel monastero di Shaolin, nella forma antica cinese che sarebbe il kung fu, ma noi stiamo sempre parlando della disciplina dell'arte della mano vuota che ha origini cinesi, passata a Okinawa nel 1700 e arrivata in Giappone nel 900. In tutte le sue mille sfaccettature, perché dalle forme più antiche a mani nude come il Tai Chi Chuan, che tutti scambiano per danza classica ma non è vero niente, è karate, fino al karate sportivo moderno da competizione, è un unico filo che ci tiene uniti nella storia. Qual è il vantaggio di praticare? Certamente se uno vuole imparare a difendersi, vuole imparare a combattere, difendersi per strada oppure atterrare un avversario, è meglio lasciar perdere, perché non si ottiene subito questo, cioè occorrono degli anni di studio e poi in giro c'è gente che ha la pistola o ha il coltello. Quindi si cerca, e nella filosofia di queste discipline, di evitare lo scontro, di riportare all'armonia le persone, non perché uno è più forte, ma perché è orribile la guerra, è sangue. Allora, se proprio in extrema ratio uno dovesse difendersi, comunque ha materia per cui farlo, ha abbastanza esperienza. Ci sono stili più o meno adatti alle donne, ci sono addirittura stili inventati da donne, come lo stile cinese che si chiama Wing Chun, inventato da una monaca del monastero per aiutare a difendersi subito, in poche lezioni, una sua compaesana che subiva violenze frequentemente perché era molto bella. La cosa che si impara prima di tutto è assumersi le proprie responsabilità. Ma io spezzo una lancia a favore soprattutto di tutte le discipline da combattimento, dove si sta in due, perché sono le più formative. Non è detto che quelle di squadra siano formative. Lo vedete nel calcio, se uno vuole non fare niente, fa il pesce in barile, si ficca in mezzo al gruppo e riesce a trovare il modo di non fare un bel niente. Mentre quando sei uno contro uno, tu non puoi scappare. Devi assumerti le tue responsabilità. Primo. Secondo, dà una grande coscienza del corpo, maggiore. A ogni azione corrisponde una reazione. Ottieni immediatamente la risposta per quello che fai. Se sbagli, paghi. Infatti io voglio dire, per una donna io credo che l'arte marziale serva proprio a configurarsi con più certezza nello spazio, sì, a non essere psichicamente inerme davanti a quello che ti aggredisce. Assolutamente così. E praticamente cosa credi tu che possa fare una donna aggredita attraverso una disciplina come questa? Diciamo che entro un anno di pratica, tra ma un certo, anno... Certo, si tratta di imparare da piccole secondo me. No, poi... no, va bene, si può, a qualunque età, perché ad esempio a Okinawa, che tra l'altro c'è la popolazione più longeva del mondo, non solo per la dieta ma anche perché praticano karate, quello antico, nella versione antica, si fa fino a 90 anni finché sta in piedi. Non è vero che... Sì, sì, no, io dicevo, pensavo sì, una educazione sì, sì. Adesso per le bambine proprio. Allora, per le bambine, insomma, per i bambini il karate è un po' un gioco, viene visto come... E dà una grande coscienza del corpo, ma va bene anche il judo, va benissimo, ecco, perché il contatto fisico cosa è importante. Cosa consiglieresti tu, praticamente, per una donna che volesse poco a poco lavorare sul proprio corpo e quindi anche sulla propria psiche, perché sono una cosa sola, per essere pronta a qualsiasi attacco? Da bambini è meglio il judo. Il karate, lo dico contro gli interessi di tutti quelli che diffondono questa disciplina, è una cosa un po' più adulta, perché implica un senso della responsabilità, perché maneggiamo pugni e calci e non sono una cosa da bambini. Al posto del nuoto, mandate i bambini a fare judo, è molto meglio, è molto molto più sano. E poi è naturale, perché la lotta per terra la fanno già da soli. Invece il karate, diciamo dai 13, 14, 15 anni in su, va benissimo, è molto formativo. Cosa vi dà? Vi dà una coscienza del corpo assolutamente superiore, una prontezza di riflessi assoluta, che è la cosa chiave nei momenti di difficoltà e nei momenti di aggressione. Nessuno si aspetta un'aggressione, ma quando arriva, se succede, sei pronto. E questa è una cosa di valore inestimabile. Poi non è che devi stare lì a fare l'eroe. Magari riesci a infilare quella piccola cosa che mette in difficoltà l'avversario e trovare il tempo di scappare. Questo è, le arti marziali te lo danno, le altre discipline non te lo danno. Puoi inviare il tuo messaggio nella bottiglia alla mail laguardiana@radio24.it. Sharmanca sharla tanta. Adesso leggerò la lettera di una ragazza che si firma La Fenice. Dai 9 mesi fino ai 2 anni e mezzo sono stata allontanata da mia madre, che non potendo tenermi con sé mi ha spedito a stare con gli zii nel sud Italia. Quando l'ho scoperto mi sono arrabbiata con i miei genitori, diventando una ragazza sbandata senza regole, e ho fatto un sacco di casini. Ho avuto molti uomini e ho amato ognuno con tutta me stessa. Peccato che poi venivo lasciata sempre in malo modo, finché non ho incontrato l'amore della mia vita, Karim. Un tunisino scappato in Italia per diventare attore, ci siamo amati per 3 anni. Io mi lego a lui, scontrandomi con tutta la mia famiglia, nasce nostro figlio. E dopo 8 mesi Karim muore. Ed eccomi qui, nuovamente sola, con un bambino da crescere. La relazione con mio figlio diventa burrascosa, proprio come la mia con i miei genitori. Dopo 7 anni di solitudine, incontro un altro uomo che mi fa ridere, è intelligente, acuto, intellettuale. Passiamo un anno a conoscerci. Però mio figlio diventa geloso e il loro rapporto si complica. E io penso che lui è la persona con cui voglio vivere. Mio figlio nel frattempo lo ha accettato e anzi sono riusciti a costruire un solido rapporto. Lui con me cambia il look, si sente bene, è socievole. Scopro che a 33 anni non aveva ancora avuto nessuna relazione sociale né sentimentale. A 33 anni viveva ancora con i genitori. Quando gli dico che vorrei vivere con lui e non vederlo solo nei weekend, cominciano i guai. Prende tempo, dice che lui sta bene così, ma che non vuole perderci. E poi, d'un tratto, si prende una seconda laurea e mi avvisa che ha deciso di andare a vivere a Milano con un suo amico, ma che 2 volte al mese tornerà per rivedere la sua mammina e stare un po' con noi. Io allora capisco che è meglio finire la storia, ma il problema è che tra noi riusciamo benissimo a stare lontano. ma se ci vediamo, i nostri corpi sono come due calamite. Chiarisco che non voglio più questa relazione, che mi sento single. Lui fa finta di non capire, continua a farci la visita di cortesia, ogni 2 settimane. Qui riassumo, lei incomincia a uscire con un altro, lui se ne dispera, capisce quanto la ama, c'è un riavvicinamento molto grande tra loro, finalmente lei va a Milano a trovarlo e lui le dice che ha un'altra. Mentre sono al bar, che le dice quanto è bella, quanto le vuole bene, dice, ah sai, tra l'altro, ho un'altra. Sono scappata, mi ha annientato, ho molta rabbia nei suoi confronti, perché mi ha voluto illudere? Poteva chiudere con me e poi farsi tutte le donne di Milano? Vorrei gridargli tutta la mia rabbia oppure vendicarmi, ma rimango ferma nelle mie ceneri sperando che la Fenice rinasca. La Fenice. Tu sei una che osa, intelligente, onesta, capace d'amore, una anticonformista naturale che ti costa caro ma è la tua ricchezza. È anche un po' sventata, perché devo dire ho l'impressione che in questa tua vita incasinatissima tu combini e resti vittima forse di più casini di quel che servano. Comunque la tua lettera è un passaggio all'inferno. Tu che sfidi tutti per Karim, ci fai un figlio, lui muore subito. E poi, come se non ti bastassero i guai, e questo è un tuo tratto sublime, vai a risolvere quelli degli altri. Mentre avresti tu bisogno di essere abbracciata, rassicurata e cullata insieme al tuo bambino, sei tu che vai a cullare e rassicurare un altro. Ti metti con uno che, a dir poco, è un caso difficile. Uno che a 33 anni non ha mai avuto una relazione sociale e sentimentale. Ma tu possiedi talmente l'arte della rinascita che riesci a trasformarlo in una persona che se la può cavare nel mondo. E lui usa subito la sua libertà per liberarsi di te. Peggio per lui. Senti, mi guardo bene dal darti dei consigli, perché sei tu la Fenice. Sei tu che sai come rinascere sempre. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Sono qui con la mia anima ferita. Mio marito, dopo aver vissuto la sua esperienza o storia o debolezza con un'altra donna, quando è rientrato a casa anche dietro mie insistenze, sembrava tutto propositivo nel ricostruire questa spaccatura e non gli ho mai negato il mio impegno. Dentro la mia maledetta anima ferita sentivo tutto il coraggio e la voglia di vincere e riconquistare questo amore, anche se la fiducia era meno di zero. Oggi mi ignora sessualmente. Tra di noi non c'è più nulla. Spesso dico a me stessa, ma cosa vuoi? Se ti ha tradita vuol dire che non ti amava e forse non ti ha mai amata. Nell'ultimo confronto ha sostenuto che era solo questione di tempo e che le sue intenzioni erano tutte orientate a me, a noi, visto che abbiamo una figlia. Ha poi aggiunto di non avere tempo né voglia di altre situazioni che gli potessero complicare la vita. In quel suo chiarimento non ha mai fatto nessun riferimento ai suoi sentimenti, nessun pentimento per la ferita provocata. Penso di essermi sopravvalutata in quanto credevo di essere pronta per questo perdono, e forse lo ero, ma alla luce dei fatti non ci capisco più nulla. Di una cosa sono certa, lui non si è perdonato e quindi, non perdonandosi, avverte forte il mio risentimento e il mio dolore non risolto. Il mio desiderio più forte? Condividere con tutti voi e con i radioascoltatori una delle confessioni tratte dal libro di Sant'Agostino, al quale tengo molto. Questa che vi invio è la mia preferita e ogni qualvolta la leggo trovo la forza di lottare per questo amore. Con affetto ringrazio te e la redazione. Angela. Grazie Angela per il bello scritto di Sant'Agostino che ci hai mandato, ma non sarà quella lettura a salvarti da un rapporto al momento tristissimo. Tuo marito, straniero era prima, straniero adesso. Da straniero se n'è andato e da straniero è tornato. Io mi sono permessa di scherzare qualche anno fa scrivendo un libro che si intitolava Il ritorno dei mariti e l'ho visto in chiave farsesca, perché sono anche un bel pretesto comico questi mariti che se ne vanno e poi fanno i revenant e di solito fanno soffrire le mogli molto peggio di quando se n'erano andati. A meno che non ci sia un ritorno di passione che travolga entrambi. E succede anche questo, ma non è il tuo caso. Dopo una frattura come quella che c'è stata fra voi, certo che ci si può riprovare, ma non stando insieme, non vivendo nella stessa casa, non riedificando una casa che non c'è più. La frattura c'è stata e vuole riflessione e lontananza e vuole che sia tu che lui siate liberi di sviluppare i vostri sentimenti, che siano buoni o cattivi, senza l'altro. Siete tutti e due nel corso di una mutazione che non può essere disegnata dall'esterno, non può essere progettata. dovete ascoltare ognuno se stesso in libertà, affrontando ognuno la propria parte di dolore e poi vedere. Io credo che tu ci metta moltissima volontà nel volerlo amare, moltissimo ragionamento, moltissimo senso del dovere, ti appoggia la solenne gruccia di Sant'Agostino. Ma Sant'Agostino a parte, come potete fare l'amore quando ancora nessuna confidenza vera è rinata fra voi? Quella storia di lui con un'altra è in mezzo a voi, c'è, va capita, va elaborata, e non è detto che la chiarezza vi porti a decidere di stare insieme. Sarà ciò che deve essere. Tu hai un modo di sentire troppo profondo, troppo alto per accontentarti di un simulacro. Leggendoti si vuole bene, ma non puoi far finta di non capire che in questo momento hai a che fare con un prigioniero di cui sei prigioniera. Qui capitaneria di porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti, realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini, a cura di Gloria Guerrera. Расплата за ошибки, когда под ребра бьют, работа есть работа.